531. Arrosto di lepre prima maniera. Le parti della lepre, lepus timidus, adatte per fare allo spiede, sono i quarti di dietro, ma le membra di questa selvaggina sono coperte di pellicole che bisogna accuratamente levare prima di cucinarle, senza troppo intaccare i muscoli. Avanti di arrostirla, tenetela in infusione per 12 o 14 ore in un liquido così preparato. Mettete al fuoco una cacciaruola, 3 bicchieri d'acqua con mezzo bicchiere d'aceto o anche meno in proporzione del pezzo, 3 o 4 scalogni trinciati, 1 o 2 foglie d'alloro, un mazzettino di prezzemolo, un pochino di sale e una presa di pepe. Fatelo bollire per 5 o 6 minuti e versate lo ghiaccio sulla lepre. Tolta dall'infusione, asciugatela e steccatela tutta col lardatoio con fettine di lardone di qualità fine. Cuocetela a fuoco lento, salatela a sufficienza ed ungetela con panna di latte e nient'altro. Dicono che il fegato della lepre non si deve mangiare perché è nocivo alla salute.